Radio 24 Reportage. Mantova, nella piazza dei lettori, di Alessandra Tedesco. Negli Stati Uniti degli anni 20, secondo una stima dei librai, i lettori forti, quelli che compravano anche libri di argomento serio, erano grosso modo 200.000. Lo chiamano il popolo di Mantova, sono le centinaia di migliaia di lettori che ogni anno frequentano gli incontri del Festival Letteratura. Sono disposti a pagare un biglietto, al massimo 4,50 euro, e a stare in coda per incontrare scrittori famosi, ma anche quasi sconosciuti, proposti dalla manifestazione. Un pubblico che Marzia Corraini, una delle organizzatrici, descrive così. Ci sono tante donne, c'è una fascia 25-45 molto forte, ci sono però delle forze presenti giovani e anche di persone più anziane. Mediamente ha una cultura abbastanza ampia e ovviamente è lettore, però noi abbiamo dati di non lettori anche e dati di gente che viene perché vuole avvicinarsi alla cultura. E qui c'è un modo diverso di farlo, cioè non ci sono mediazioni, non ci sono giudizi. Possono venire e dire non mi piace, e qui nessuno dice niente. Gli appassionati del festival vengono soprattutto da Mantova e da città del nord come Milano, Bologna e Verona, ma non mancano persone che arrivano da più lontano, considerando la manifestazione un appuntamento fisso di fine estate. Il festival è un'opportunità, diciamo, per conoscere diversi autori, per uno scambio di informazioni, di culture, di pensiero, una cosa molto molto ampia, molto molto bella. E tu invece? Ti piace il festival? Mi piace, sono meno partecipe rispetto agli altri, però penso sia una grossa opportunità, soprattutto per i giovani, di essere a stretto contatto con la cultura. È il suo primo festival per lei? No, assolutamente, da quando ho cominciato che vengo. Che cosa le piace del Festival di Mantova? Intanto che in questi 4-5 giorni, secondo me, Mantova si sveglia, è diversa, anche se di gente se ne vede, del turismo ce n'è quasi sempre, però questo tipo di attenzione, questo tipo di persone non si vedono di solito a Mantova. E poi la non banalità, cioè qualsiasi cosa tu vada ad ascoltare, vale la pena essere ascoltato. Poi magari capisci il 20% di quello che dicono qualche volta, però vale sempre la pena ascoltare. Da dove viene? Da Verona. Che cosa le piace del Festival di Mantova? A me piace proprio questa aria, respirare questa aria. Tutti questi nuovi scrittori, questi ragazzi con tanta voglia di comunicare. Ecco, questo mi piace molto. Io sono qua proprio per assorbire tutte queste notizie. C'è un autore che le è piaciuto particolarmente? Ora guardi, ho conosciuto proprio Escol Nevo, che sarò molto lieta di leggere il suo libro. Perché venite al festival? Cos'è che vi piace? Beh, comunque siamo lettori, quindi veniamo a vedere, quando capita, a vedere, diciamo, degli scrittori che conosciamo, oppure a conoscerli così ex novo. È capitato tante volte, appunto, di andare a un incontro senza conoscere l'autore e dopo di essere incuriositi di leggere. Mi può fare un nome di uno scrittore che ha scoperto qui al festival? Joseph O'Connor, per esempio, lo conoscevo già ed ero venuta al festival, poi è stato molto bello, insomma, poter partecipare. Beh, io ad esempio Roddy Doyle l'ho conosciuto al festival perché non avevo mai letto niente prima, e sono anni fa però. E anche Jeanette Winterson. Queste le voci dei visitatori, ma che cosa pensano gli scrittori del pubblico del festival? Partiamo con Bruno Gambarotta, che partecipa dalla seconda edizione. È una specie di enclave molto felice, si trovano persone che amano la lettura, amano i libri, amano gli autori, che sono competenti. Il segreto, secondo me, è stato nel far pagare il biglietto d'ingresso, perché a questo punto è un filtro naturale, chi viene è veramente motivato, non c'è quel turnover fastidiosissimo che c'è per esempio al Festival del Libro, dove sullo sfondo uno parla, vede un continuo persone che arrivano, si affacciano, dopo 2 minuti vanno via. E poi tutti gli autori che io ho intervistato, sia italiani che stranieri, stupitissimi del fatto che le domande del pubblico presupponevano un interesse per l'autore, un interesse vero. Quindi è una meraviglia trovare finalmente un interlocutore che fa domande appropriate, che ha letto i tuoi libri, che viene lì perché ti stima, gli interessi, ti apprezza. Quindi c'è è una specie di miracolo italiano questo, non c'è nessun altro posto dove succeda questo. Michela Murgia, del pubblico cosa pensi? Dipende dal pubblico. La prima sera ho avuto un pubblico di volontari, adolescenti e ragazzi giovani sotto i 20 anni. Sono stati la cosa peggiore che ho vissuto negli ultimi 3 anni, esigentissimi e molto, molto critici e allo stesso tempo disposti a mettersi in gioco con le mie provocazioni. Quello, ecco, spero che è un pubblico che adoro incontrare una volta ogni 6 mesi, perché mi porta via 6 mesi di vita, quindi poi devo recuperare. Il resto delle persone che vengono ai festival letterari si somiglia un po'. Sono persone che fanno un investimento su se stessi e questo li rende molto ben disposti nei confronti degli interessi che sono collegati, proprio in termini di investimento. Ci considerano i loro interessi, il loro valore aggiunto. Francesco Piccolo, che idea ti sei fatto del pubblico del festival? Di solito i pubblici dei festival sono sempre insultati per essere troppo intelligenti, concentrati, appassionati. A me sembra che sia il tentativo di, come dire, di mettere insieme in poco tempo tante cose che ami, che ti piacciono, insieme ad altra gente che la pensa come te, che è una cosa secondo me che se la si fa per tutto l'anno è eccessivo e sconvolgente ed è una specie di mondo, come dire, di comunismo antico. Se si fa ogni tanto è rigenerante. Il clima di festa è alimentato anche da centinaia di giovani che fanno i volontari. Per 5 giorni danno indicazioni al pubblico, gestiscono l'ingresso agli eventi, partecipano agli incontri, ma soprattutto si divertono. Sono Luigi, 19 anni, e ho deciso di fare il volontario un po' per lo spirito del servizio e un po' perché mi piace questo clima con la città ravvivata per questi pochi giorni nell'anno, allora penso che sia meglio sfruttarli. Quale scrittore fra quelli di quest'anno ti piacerebbe incontrare? C'è già stato, Simo Sini, è un poeta irlandese premio Nobel. Mi chiamo Alessia, faccio la volontaria perché penso che sia utile per crescere, per stare in mezzo alla gente e perché è bello stare in compagnia. Ma quanto vi divertite a fare i volontari? Tanto, però lavoriamo anche tanto. Io sono Beatrice, ho scelto già il secondo anno che vengo qua al Festival della Letteratura e ho deciso di fare la volontaria perché secondo me è un modo per intanto per conoscere magari anche autori nuovi, gente nuova e anche perché comunque penso che in questo periodo ci sia bisogno di cultura e quindi insomma conoscere, girare il più possibile. È per questo che ho scelto, è già il secondo anno che appunto che partecipo e è divertente, mi diverto e mi piace. In questi 2 anni quale autore ti ha colpito di più? Allora, io sono venuta 2 anni fa e un incontro che mi era piaciuto moltissimo era stato quello con Nicola Magniti. Beh, mi era piaciuto molto perché comunque avevo letto alcuni suoi libri e lo trovo un autore, appunto uno scrittore che è molto valido sia per ragazzi magari appunto delle superiori sia per appunto per gli adulti, per un pubblico più grande e quindi era un autore che mi era piaciuto particolarmente. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.